nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera, come nel santuario, monaca prigioniera, l'organo a fior di dita, che pallida, fugace, stupì tre note chiuse nell'organo, tre sole in un istante fuse, tre come tre parole che ella sepolte in pace. Da un ermo santuario che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note, spirito solitario. Di Giovanni Pascoli, Il passero solitario, dalla raccolta Mirice, 1905, pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo, Creative Commons 4.0 International, BYNC ND.